6 febbraio 2010, Alessandro Daveni, docente e scrittore, interviene alla Giornata per la Vita a Firenze. Benvenuti. Io nella mia vita non mi sono mai fatto una canna. Ho 32 anni, un fisico un po' gracilino, e non mi sono mai fatto una canna, mi è venuto in mente adesso, non l'avevo preparato questo, perché la realtà è un'enorme canna. Allora, non si capisce perché ci sia bisogno di questo. La prima volta che sono entrato in una scuola a insegnare, insegno ormai da 10 anni, la collega di inglese, ero andato io nel bagno dei professori, mi ha detto: tu qui non ci puoi stare. Ho detto: piacere, il collega di greco e latino. Poi siamo diventati grandi amici. È da 10 anni che io sto a scuola ed è da 10 anni che assisto al miracolo dei vostri volti. Mentre parlava Nick, parlava Libero, parlava Diego, guardavo le vostre facce. E quanto mi piacerebbe poter parlare con ciascuno di voi, come succede con i miei alunni, e non con una massa informe, soprattutto con quelli seduti qui per terra che si stanno spezzando la schiena, che hanno una pazienza infinita. Allora, proviamo a entrare nel merito della questione. La domanda che ci poniamo è questa. Io, chi sono? Non c'è da ridere, è una cosa serissima, ragazzi. Allora, senz'altro un dato fondamentale della vostra età, straordinario qual è? Che tutti voi volete essere liberi, perché l'adolescenza è un'età meravigliosa in cui per la prima volta finalmente papà e mamma si mettono da parte, cioè li mettete da parte giustamente, e dite: adesso tocca a me. Non siete più bambini, è l'ora di diventare adulti. E questo senso di libertà dal condizionamento degli adulti in realtà non è che sparisce, semplicemente si sposta da un'altra parte. Tanto che diventano molto significative le cose che fanno i vostri amici, i vostri pari, il gruppo. Vogliamo essere liberi e siete nell'età in cui si scopre il senso di questa libertà. Avete 5 anni, dico 5, per capire che cavolo ci siete venuti a fare su questa terra. Mi ritrovo con studenti che dopo 5 anni di liceo non sanno che facoltà universitaria scegliere, e allora la domanda soprattutto agli insegnanti è: ma tu che hai fatto con questi ragazzi per 5 anni? Chiaramente questa provocazione non riguarda nessuno degli insegnanti presenti qui dentro, E allora andiamo a cercare questa libertà come faceva Dante nella Divina Commedia, che a un certo punto, quando si incontra per la prima volta con Beatrice nella Divina Commedia, l'aveva incontrata alla vostra età e aveva detto: wow. Cioè aveva capito perfettamente alla vostra età, c'è scritto un libro che si chiama La Vita Nuova, che vi consiglio di leggere, e aveva capito che il senso della vita stava tutto lì. Nel film Hitch all'inizio si dice: nella vita non sono importanti le cose che ti danno il respiro, ma quelle che il respiro te lo tolgono. Allora voi dovete ogni tanto fermarvi e capire quando è che perdete il respiro. Wow! Allora lì c'è quello che conta per la vostra vita. E Dante va cercando la libertà in tutta la Divina Commedia. Non vi faccio la lezione, non vi preoccupate. E invece guardate cosa dice una ragazzina nel suo blog, trovato per caso. Arrivo a casa, la tristezza comincia a salire, vedere i miei, che è una tristezza rilevante, dovere studiare, voglia di evadere e di fuggire, non capisco cosa voglio, ho paura del futuro, dover iniziare tra 2 anni il liceo, ho paura, ci sono tante cose che non puoi controllare, mi manca qualcosa ma non so che cosa, la malinconia, l'angoscia, la tristezza mi seguono, voglio che tutto migliori, ma non so da dove cominciare. Allora, queste domande qui nascono solo quando si sta in silenzio. Per favore ragazzi, per favore professori, ogni tanto fate questo compitino qui. di stare 5 minuti in silenzio. Io ogni tanto do i compiti di silenzio ai miei alunni. Dice, allora dovete stare 5 minuti in silenzio. Dice, ma 5 minuti come? Con la musica accesa? No, no, proprio in silenzio. E al terzo minuto le budella vi si ritorcono. Perché siete costretti a parlare con voi stessi, cosa che purtroppo fate raramente. Le parole di cui Nick ci ha parlato, che sono capaci di determinare la vita di persone, di salvare addirittura bambini attraverso una canzone, hanno valore se vengono accolti in una persona che sa fare silenzio. Allora non abbiate paura della noia, del silenzio, perché è lì che nascono le cose migliori. Annoiatevi! È una fortuna annoiarsi! Allora, questo ragazzo qui, lo conoscete? Questo ragazzo si chiama Narciso, brava la ragazza dai capelli rossi, si chiama Narciso, e Narciso, come sapete, è questo ragazzo bellissimo che a un certo punto ha una serie di pretendenti, in particolare una, la ninfa Eco, che è innamoratissima di lui e lo va inseguendo, e c'è lui che scappa, così come succede abitualmente nel primo anno di liceo, no? E allora lui scappa, finalmente riesce a divincolarsi dalla sua pretendente, che si strugge d'amore, purtroppo arriva fino a consumarsi e rimane solo la voce, per questo Eco. Ed è donna, così non sbagliate più, un apostrofo Eco, mi raccomando, perché è una donna. Allora lui lì si ferma davanti a questo corso d'acqua, si guarda allo specchio e dice, wow! Ed è però un po' ingenuo, perché pensa di avere di fronte un'altra persona e nel tentativo di abbracciarla cade in acqua e ci lascia le penne. Allora, stamattina abbiamo condiviso, si è parlato prima di specchi, tutti questo dramma dello specchio, perché eravamo lì davanti allo specchio e dice, ma io con quella faccia come faccio a uscire oggi? Allora, la differenza fra un adolescente e un adulto è che l'adulto ha imparato ad avere pietà di quella faccia e quindi dopo un minuto, si è fatto la barba, esce e affronta il mondo. L'adolescente sta lì un'ora e dice, ma aspetta, forse se mi metto questa camicia, forse se mi metto questo trucco, ma questo è il bello della vostra età. Ma anch'io faccio così. Mi devo preoccupare? No, per carità. Allora, che cosa succede? Succede questa cosa meravigliosa, che se voi mettete un gatto, un cane o un bambino piccolo davanti allo specchio, cosa pensa il gatto, il cane e il bambino piccolo? Di avere di fronte un altro gatto, un altro cane e un bambino piccolo. Voi invece vi guardate allo specchio e non pensate di avere di fronte un'altra persona, per fortuna. Se qualcuno lo pensasse, ci sono altri modi di risolvere questo problema. Ma il punto qui è questo, che il bello dell'adolescenza è proprio questo, che viene un momento in cui ti rendi conto che c'è una distanza fra quello che si vede sulla superficie e quello che tu sei, e per questo non vuoi uscire dal bagno, perché hai paura che gli altri non vedano tutto l'intero che sei tu. E cerchi di costruire sulla superficie del tuo corpo il tuo modo di essere. Allora bisogna lavorare, però non sulla superficie, ma più in profondità. Non ti preoccupare, ce la facciamo. Scusate, io faccio un po' il buffone. Allora la domanda che ci hanno posto i Killers qualche mese fa è questa: siamo uomini o siamo ballerini? Perché cosa viviamo? Per il sabato sera in discoteca? O c'è qualche cosa? Tu dici sì. Ok, buona fortuna. O c'è qualcos'altro? Allora, dobbiamo andare un po' alla ricerca di che cos'è questa umanità. Io sforerò sicuramente, vabbè. Allora, l'identità noi la cerchiamo tutti i giorni dove? Su Facebook! Alessandro D'Avenia è su Facebook. Sì, ecco, se mi cercate mi trovate. Cercatelo. Allora, che succede? Perché rispondiamo giornalmente a questi quiz che ci dicono che attore siamo, che personaggio dei Simpson siamo, che personaggio di Lost siamo? Perché rispondiamo tutti i giorni ad almeno 10 di questi? Anche tu, Sì, lo so, hai la faccia colpevole. Perché facciamo questo? Perché abbiamo un bisogno incredibile di sapere chi siamo, altrimenti non perderemmo così tanto tempo con questa roba. E l'unica maniera di sapere chi siamo in anticipo è attraverso le storie. Ma siamo sicuri che attaccarci tutti questi pezzi addosso ci dica chi siamo veramente? Siamo uomini o siamo ballerini? Ballerini? Anche. Le due cose non sono incompatibili. Amo il mio blog e gli space di MSN, li amo più di qualunque altra cosa al mondo, senza di loro io non sarei niente. Non posso studiare geografia, è pallosa, pallosa, pallosa. Questa è una figura retorica che si chiama tricolo, quando si ripete tre volte. Sono sempre più depressa e attaccata a questo cazzo di computer, un'altra metafora che non vi spiego. Ma il punto è questo, liberi dai condizionamenti, e poi i condizionamenti rientrano dalla finestra con una dipendenza. Dite, vi capita di svegliarvi dopo un pomeriggio in cui siete stati davanti a YouTube? Tutto il pomeriggio, passando da un video all'altro, da un'emozione all'altra, da un quiz all'altro di Facebook, guardate l'orologio e dite, ma che ho fatto oggi? Vita, ne avete una sola, una. E allora c'è gente che su questo costruisce il proprio marketing. Io sono un uomo Mac, quindi non è che sto andando contro Mac, o non mi interessa. Ma c'è gente che vi dice, guarda che tu non sei Alessandro, Giovanna, Andrea, Eustachio, quello che sia. Soprattutto Eustachio. È un bel nome, per carità. Spero di non offendere nessuno. Tu sei Pod, iPod, iPhone, cioè chi sono io? Io sono uno che telefona. Allora capite che questo è drammatico, perché a un certo punto uno si sveglia a 25-30 anni e dice, ma io chi sono? Uno che fa telefonate. Allora quello che può succedere è che alla fine ci si senta un po' confusi. Tutti conoscete questa canzone meravigliosa, Numb, dei Linkin Park, che ha questo video bellissimo in cui c'è questa ragazza che va cercando nella confusione la propria identità. Lei vuole essere un artista, ma nessuno capisce questo suo desiderio di esserlo. Sto smettendo di sperare, nessuno se ne accorge, nessuno lo saprà, soffrirò in silenzio per sempre, rimarrò chiusa nella mia stanza perché è solo qui che i sogni si avverano. Ragazzi, tirate fuori dalle vostre stanze la connessione a internet. Tirate fuori dalle vostre stanze il televisore, perché se no finite così. La realtà è fuori da quella porta. La vostra stanza è il laboratorio dei vostri sogni. Se io non avessi avuto il sogno di scrivere un libro in cui ritenevo di dover raccontare una storia che mi stava a cuore e non l'avessi scritto nottetempo, perché faccio l'insegnante, non ho il tempo di scrivere, non si sarebbe realizzata questa favola meravigliosa per cui il libro adesso è pubblicato. Questa è l'età in cui maturate i vostri sogni e attorno il mondo vi dice che è inutile averli. Vi stanno aspettando per distruggerveli. Un esercito di pessimisti. Custoditeli, perché quella è l'identità vostra. Allora, qui devo andare rapidamente, non c'è il tempo, saltiamo. Allora, di che cosa abbiamo veramente bisogno per essere felici? Tutti voi forse avete visto questo film, se non l'avete visto guardatelo, The Truman Show, in cui c'è il protagonista che a un certo punto scopre di trovarsi dentro un reality e deve decidere se uscire da reality oppure rimanerci dentro. Il creatore del reality gli dice, guarda che là fuori troverai molto più dolore e molta più menzogna di quella che hai trovato qua dentro. Quindi resta qui. E lui che cosa fa? Noi che cosa fa? Per cosa facciamo il tifo? Perché lui resti dentro o perché lui esca fuori? E perché nella realtà stiamo facendo il tifo perché la gente si chiuda dentro una casa? Da 10 anni? Bravo. Felici, non sempre ciò che desideriamo è ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Cosa ci dicono i ragazzi sul loro futuro? Ci dicono che vogliono diventare un calciatore e le ragazze che vogliono diventare un personaggio famoso. Al secondo posto non lo so. Ragazze, questo un po' mi preoccupa, Però è chiaro che questi sono David e Victoria. È chiaro che questi sono Hillary e Francesco, che è la versione Benoantri, va? Noi ci accontentiamo. Però sono le due coppie più esposte in questo momento. Allora, se un tempo si sognava di diventare qualcuno prendendo dai propri genitori, dai propri professori, quello che sia, io ho avuto al liceo come professore di religione, non direttamente io, ma della sezione accanto alla mia, padre Puglisi, un sacerdote che è morto, ucciso dalla mafia semplicemente perché cercava di tirare fuori i ragazzi dalla strada. Allora, quando ti capita una cosa così a 16 anni, tu dici, io vita ne ho una sola, perché cosa la sto spendendo? Per diventare un personaggio famoso? Ho 22 anni, ho raggiunto un buon titolo di studio, possiedo una macchina strafiga, anche questa è una metafora che voi conoscete, sicurezza finanziaria, quante ragazze voglio, prestigio sociale, maggiore di quanto mi occorre. Adesso devo solo spiegarmi che cosa significhi tutto questo. Allora, attenzione ragazzi, perché può succedere che il copione della vostra vita sia già stato scritto, andrete avanti, vi sposerete, farete dei figli, ma questo non significa che avete trovato un senso per la vostra vita. Non basta realizzare i propri desideri per essere qualcuno e per essere liberi. Vado avanti. Avril Lavigne, cosa ne pensate qui, con tutto il rispetto per i cantanti, Nick, abbi pazienza. Cosa ne pensate, senza offendere, però io ci tengo molto a lei, ci tengo molto perché siamo identiche nel carattere, credetemi, siamo identiche in tutto sul carattere. Ok, però questo vi succedeva quando eravate alle medie, non... Allora, una persona che non si è mai conosciuta diventa il punto di riferimento, più ancora delle persone che ho accanto. Questo è molto interessante, vedete, ricerca di identità costante. Andate a leggere direttamente le parole sottolineate, entro nei testi, le loro parole mi hanno fatta crescere e diventare la persona che sono ora. Non sono papà e mamma che mi hanno fatto diventare la persona che sono ora, sono i Green Day. Niente da dire sui Linkin Park, è stato il gruppo musicale che mi ha cresciuto, ho lasciato anche gli orrori di ortografia, Il gruppo musicale che mi ha cresciuto, interessante, no? Ho 13 anni, la mia vita sta per cambiare, mi faccio bionda, non sopporto più i capelli castani, comincio un'altra vita. Cioè, se Dante scriveva la vita nuova perché aveva incontrato Beatrice e dice ma qui io devo cambiare vita perché fino adesso sono stato un po' un pirlacchione, adesso devo diventare una persona seria. Può succedere che uno pensi di cambiare vita cambiando la pettinatura o addirittura portando una cinta della fucking criminal. Ora mi sento un'altra perché ho suscritto fucking criminal. È possibile. Oppure c'è chi finalmente legge un libro, ma il libro è Confessione di un'ereditiera di Paris Hilton. Quando sei triste e annoiato, che fai? Stai chiuso in casa paralizzato davanti al computer e chatti con gli amici anche se non hai niente da dire, invia sms così solo per fare qualcosa per non sentirti solo. Allora ragazzi, questo qui è il punto. Liberi da condizionamenti non vuol dire non avere condizionamenti, è impossibile non avere condizionamenti, è capire da chi vogliamo dipendere. La libertà è questo, ragazzi, decidere da chi io voglio dipendere, perché è un dato che voi volete essere liberi e poi cercate il moroso o l'amorosa, c'è qualcuno da cui dipendere. Cioè, io voglio essere libero, ah come sei carino, farei tutto per te. Cioè, voglio essere libero eppure sembra che io voglia dipendere. Com'è possibile? Perché noi vogliamo dipendere da qualcuno, ma quali sono le dipendenze che ci liberano? E quali quelle che ci ingabbiano? Sta a noi scegliere. Oggi mi metto il cappellino, e le scarpe Nike, vestito così faccio carriera nel mio branco. Da chi dipendiamo? Dallo sguardo degli altri? Dal branco? Voglio il cemento, mi voglio cementare sulla piazza col branco e poi non vado più via da lì. E allora la ricerca della libertà è decidere da chi dipendere. Siamo personaggi, questo pittore americano di metà del secolo scorso riprende il tema di Narciso e dipinge questa fantastica ragazzina che si guarda allo specchio e come Narciso si chiede, ma io chi sarò? Cosa diventerò? Ma qual è la differenza con Narciso? Che Narciso non aveva la rivista sulle gambe. Questa ragazza invece cosa ha sulle gambe? Una rivista in cui c'è il volto di una diva. Dice, ma io potrò diventare come lei? Che ha sul volto l'apparenza della felicità. E oggi siamo di fronte a questo, la casa non è casa vostra, è la casa in cui ci sono persone che dalla mattina alla sera non fanno finta di fare delle cose, per cui c'è il cieco, c'è la maggiorata, tutti sappiamo chi sono questi personaggi, ma le persone dove sono andate a finire? Nella fattoria un tempo cantavamo ia ia o, ci stavano gli animali, adesso ci hanno messo gli uomini. L'isola e dei famosi, gli uomini e donne chi sono? Sono persone che litigano tutto il giorno per avere un po' di audience, ma uomini e donne sono una cosa molto più bella e molto più grande di questa. Se voi cominciate a spegnere Maria De Filippi, forse Maria De Filippi va in pensione. Allora, noi invece siamo persone, lo stesso pittore si guarda allo specchio e si fa l'autoritratto, sullo specchio un po' inebetito, un po' con lo sguardo da scemo, e invece nel ritratto è ancora volitivo, giovane, pieno di vita. Allora è questo che noi insegnanti, i genitori, facciamo, cerchiamo di fare con voi, aiutarvi a passare dalla superficie all'autoritratto. E la libertà sta lì, nell'autoritratto, perché quando tu hai trovato il tuo autoritratto non lo cambi più con niente. Invece la superficie sei disposto a cambiarla continuamente, e questo vi fa sentire confusi, questo vi fa paura. E allora dovete scendere qua dentro e capire qual è la verità su di voi. Come? Confrontandovi con la realtà, non con la chat di Facebook, che è una parte piccola di realtà, ma non è tutta la realtà intera. Sto finendo, ce la posso fare? Sì, ti concedo ancora qualche secondo. Secondo, grazie. Allora, chi sono? Sì, la domanda chi sono in realtà è la domanda da chi voglio dipendere. Noi siamo diversi dagli animali perché non è l'istinto a dirci cosa dobbiamo fare. Se io invece lascio decidere il mio significato da ciò che fanno gli altri, che cosa faccio? Rientro nel conformismo. Io chiedo ai miei alunni, mi scrivete un tema sul perché è meglio andare in giro con i pantaloni a vita bassa piuttosto che no? Foglio bianco. Perché l'unica motivazione è che Dolce & Gabbana devono fare un sacco di soldi perché avete le mutande con scritto su Dolce & Gabbana. Allora cercate di spezzare un po' di questi luoghi comuni. Rifiutate i comandamenti dei vostri genitori, sì, però poi ve ne imponete degli altri molto più ferrei. Soprattutto se indossate pantaloni a vita bassa, guardate che quando vi chinate si vede sedere, ecco. E non è bello. No. Oppure può succedere che lasciamo decidere non in base a quello che gli altri fanno, ma in base a quello che gli altri comandano, perché siamo magari particolarmente deboli. E questo è quello che succede nelle epoche totalitaristiche. Guardate questo film qui che racconta proprio questa storia, l'hai visto, bravo, ecco. Ti ha fatto bene? Ok, se viviamo così, quello che succederà prima o poi è che andremo in crisi, perché avremo preso i pezzi di identità da una serie di cose esterne che non ci appartengono, e a un certo punto questi pezzi non andranno più insieme e ci sgretoliamo. Io invece quello che vi invito a fare è, sin da adesso, capire da chi volete dipendere e quali sono quelle dipendenze che vi liberano. Ci sono storie d'amore che sono delle gabbie, abbiate il coraggio di spezzarle. Una ragazza o un ragazzo lo sa benissimo nel suo cuore se quella storia ti libera o se quella storia ti ingabbia. Dice, ma se poi mi lascia, poi faccio la figura dello sfigato perché non è il fidanzato. Fate la figura dello sfigato, sarete voi stessi però. Allora, e qui veramente chiudo, quello a cui vi invito è cercare la realtà e non il reality. Perché sennò, ragazzi, ci finisce così. Ci finisce così. Domanda, cosa fai quando sei triste? Risposta, musica, birra, canne. Quando sei felice, canne, musica e birra. Chiudo con questo spezzone del film About a Boy. La mia vita è fatta di unità di tempo. Comprare CD, 2 unità. Mangiare, 3 unità. Fare ginnastica, 2 unità. Tutto considerato, avevo una vita molto piena. potete avere l'impressione di avere una vita piena perché fate sport, perché comprate CD, perché scaricate film, ma potrebbe succedere di ritrovarsi a un certo punto così, a scoprire che la vita non ha senso perché queste cose non bastano. E qual è l'unica cosa che ha senso per quest'uomo? L'unico legame che è stato capace di creare nella sua vita. E allora il segreto che ci resta è questo, se riesco a trovarlo. Solo i legami veri liberano dai vincoli. Allora il paradosso che oggi vi ho cercato di raccontare è proprio questo, che libertà non è fare quello che si vuole, libertà è liberarsi dai vincoli attraverso i legami, che è l'unica cosa che ci libera. E guardate cosa scrive una mia alunna. Io dico sempre ai miei alunni: chiedete alle persone che sono felici perché lo sono. E puntualmente ti arrivano 10 mail dei tuoi alunni. Dice: professore, ma lei è felice? Io ho risposto e poi lei cosa mi dice? Non solo mi ha risposto pienamente, ma mi ha anche fatto riflettere. Beh, a sentire le sue motivazioni credo di esserlo anch'io. Insomma, nella vita di ognuno di noi ci sono momenti difficili, a volte si ha voglia di piangere, di sfogarsi, ma alla fine ci rendiamo conto di essere circondati da persone che ci vogliono bene, che farebbero di tutto per noi. Secondo me questa è la cosa più importante. L'amore e l'affetto sono le cose più belle che una persona possa darti. Io mi sento di riceverne moltissimo. Sì, sono felice e ora ne sono certa, ci ho pensato ieri notte e mi sono accorta che a me non manca niente. Non sto dicendo che essere felici dipenda da cosa si possiede. Parlo di cose astratte come l'amore, 14 anni. Pensare che l'amore sia una cosa astratta ci sta. Credo che da questa parola derivi tutto. A volte, soprattutto d'estate, quando sono in barca con mio padre, mi capita di assistere a tramonti bellissimi che ti fanno riflettere quando ti perdi in quei meravigliosi colori che si intrecciano l'uno con l'altro. È lì che penso di essere felice, quando senza notarlo inizio a sorridere. Quando non penso ad altro che a quel tramonto, di come sono fortunata di essere venuta al mondo e soprattutto della fortuna che ho di poter vedere tutte queste bellezze. Il mondo è bellissimo e io sono venuta al mondo per vederlo, per esplorarlo, e il mio scopo è di capire il motivo per il quale Dio mi ha fatta nascere. E allora, l'augurio che io vi faccio è proprio questo, di capire il motivo per cui siete nati, e credo che il motivo sia perché siete frutto dell'amore di qualcuno, che è veramente l'unico legame che libera.